morire. Proprio quando volevo vivere con te, allora ho pensato quanto meno di venire a salutarti e dirti addio, ma sai come vanno queste cose, il tempo è poco, quindi sei morta e non t'ho più vista, ma se c'è una persona per la gente che torce, quella sei tu, quindi spero di salutarti quando ti vedrò. Ho saputo che hai perduto la memoria, ma da allora vivi meglio, spensierata. Hai abbandonato il senso di colpa su un'autostrada, è stato investito da un'auto a folle velocità. Tu non ti sei presentato al funerale con una scusa qualsiasi, ma in realtà eri andata ad una festa senza invitati e senza musica a ballar. Ho saputo che hai paura del buio, per questo ogni notte entro in camera tua, mi nascondo sotto il letto ed aspetto che tu spenga la luce per controllare che non ci sia nessuno, nulla di cui temere, di cui preoccuparti, e poi rimango a dormire sotto al letto con una luce accesa, perché in realtà ho paura del buio anch'io. Ho saputo che sei partita per un posto lontano, mi ci hai lasciato il cuore ed una mano sperando di tornare, ma non vogliono che tu rimetta via dell'aiuto, in tutta sincerità stai cercando di ricostruire il tuo cuore, ma non vorresti rimetterci la mano. Ho saputo che non mi puoi amare, me l'hai detto con un telegramma postale che non sono ancora andato a ritirare, ma già so quello che contiene perché l'abbiamo scritto insieme, sapendo che di un telegramma non ci si può fidare. Ho saputo, perché qualcuno me l'ha detto e vorrei sapere chi mi dice tutte queste cose, e soprattutto se è necessario che io sappia tante cose e ti veda sempre più dettagliata e definita, sarebbe meglio che una miopia dei sentimenti ci coinvolgesse e ci portasse via. Intrecci amorosi parte 1. Susanna. Susanna è piccola, non vuole stare con nessuno, solo con la madre, poiché dentro cova la paura che il padre la abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada. Susanna per questo motivo si aggrappa compulsivamente alla gonna della madre giorno e notte per superare questa sindrome da abbandono da autogrill, fino a quando compie 15 anni e, scoperta la gioia del sesso sbarazzino, non vuole più stare solo con la madre e, staccatasi dalla gonna materna, si attacca ai pantaloni degli amichetti di scuola Maurizio, Piero, Ferdinando, catena! Tutta gente a modo, per carità, soprattutto catena! A tutti e quattro si attacca Susanna, sempre compulsivamente, sempre per contrastare questa sindrome da abbandono da autogrill. A tutti e quattro si attacca, tranne Giuliano, ragazzino troppo a modo per il sesso sbarazzino di Susanna. Susanna compie 28 anni e, dimenticate anche gli amici di scuola, Maurizio, Piero, Ferdinando, catena, intraprende una relazione proprio con Giuliano, che nel frattempo si è fatta una posizione. E per paura che Giuliano l'abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada, Susanna si aggrappa compulsivamente ai pantaloni di Giuliano giorno e notte, chiedendo di tutto di più a Giuliano: una casa a doppio livello, la Golf, una macchina per lui e per lei, la sera sempre fuori, quest'estate portami in un posto diverso, stupiscimi, e performance sessuali di una certa importanza, perché ricordiamoci che Susanna è sempre quella del sesso sbarazzino. Ma a 40 anni Susanna, a causa della prostata prematuramente ingrossata di Giuliano, un'ipertrofia prostatica giustificata dallo stress di una vita spinta sull'acceleratore, Susanna comincia a aggrapparsi ai pantaloni degli amici di Giuliano quando Giuliano va a lavorare con del sesso sbarazzino, sempre per contrastare questa sindrome invincibile d'abbandono da autogrill. A 55 anni Susanna continua ad aggrapparsi ai pantaloni di Giuliano, nonostante abbia ripreso a aggrapparsi pure ai pantaloni di Giuliano, che nel frattempo, con grande fatica, grazie anche a degli antibiotici molto forti prescritti dall'andrologo, tenta il tutto per tutto. «Mi aggrappo a più persone possibili», ha detto Susanna in un'intervista. «Hai visto mai superarsi definitivamente questa sindrome da abbandono da autogrill?» Susanna, nonostante l'età che avanza, 65 anni, ci prende sempre più gusto a stare con gli amici di Giuliano. E a 70 anni, proprio ultimamente, ha ripreso a frequentare anche un vecchio amico di gioventù. Catena! Susanna non ha mai lasciato Giuliano. Forse perché dentro cava sempre la paura che Giuliano la abbandoni all'autogrill in mezzo all'autostrada. Che se Giuliano poco poco si accorge di quello che sta combinando Susanna, succede un macello, Tocca chiamare 113, non fermi più Giuliano, c'è una prostata enorme, ma diventa una schegge impazzita Giuliano, è buono buono, è tranquillo. Che se il padre di Susanna a suo tempo l'avesse veramente lasciata all'autogrill in mezzo all'autostrada, sì certo, magari Susanna sarebbe stata rapita da qualche malvivente, ma non facciamo fa sta vita di merda a Giuliano, e andiamo su. I don't read it for more fire. faina. I don't read him at all the rain. When I read him above all spina. I don't read him above all rhino. When I read him above all spina. Intrecci amorosi parte 2, Gaudenzio e Pina. Gaudenzio ha sposato Pina, che come madre c'ha Ombretta. Pina ha sposato Gaudenzio, che come padre c'ha Antonello. Pina e Gaudenzio stanno insieme, no? Se sono sposati ogni tanto. Con gli anni però Gaudenzio si accorge che Pina fisicamente somiglia sempre di più alla madre Ombretta. E Pina, vedendo Gaudenzio, si accorge che invece di somigliare al padre Antonello, pure lui comincia a somigliare Ombretta, la madre di Pina. È una cosa stranissima, una cosa mai vista prima. Gaudenzio aveva paura di dire a Pina che somigliava a Ombretta. Pina invece era angosciata nel constatare quanto pure Gaudenzio somigliasse fisicamente a Ombretta, pure perché voi dite Gaudenzio è un uomo e Ombretta è una signora di 87 anni con delle caviglie importanti. Ma poi Gaudenzio è morto. È morto, è una storia, c'è brutta storia, morta. Cioè, com'è morta? E Pina, Pina oggi esce con Susanna, quella di prima, quella del sesso sbarazzino, e tutte e due si attaccano ai pantaloni degli amici di Giuliano, compresa la catena. Una bella comitiva si è creata, lascia perdere, una bella comitiva. Intrecci amorosi parte 3, pratiche sessuali di Luigino la merda. Sono Luigino, sono vestito male, sono brutto, nessuno mi avrà. Sono sempre Luigino, sono vestito bene, sono bello, tutte mi avranno. Tu mi vuoi, Tizianuccia, pure che sono vestito male, pure che sono brutto. Per questo motivo tu, Tizianuccia, non mi avrai mai, perché non apprezzi la differenza fra quando sono brutto e quando sono bello. So Tizianuccia, ma Luigino, cioè, ma andate voi a fanculo o ci penso io? Non lo vedevo da un po', so 2 minuti che parla, mi si è risvegliata una certa antipatia. Maschilista io? No, assolutamente. Le donne, come dice il buon Dio, una questione di costole. Vedo infatti che certe cose hai imparato a fartele da solo, caro Luigino. Per certe pratiche sessuali, infatti, come dice il tuo Dio, è una questione di costole. Vorrei tu fossi una pianta per poterti piantare. Vorrei tu fossi un'ascia per poterti lasciare. Vorrei fossi una molla per poterti mollare. Ed infine una corda per poterti scordare. Ma tu non riesci a capire che nonostante il nostro approccio alla comunicazione sia simile, ci sono milioni di modi in cui ci si può fraintendere, soprattutto considerati i diversi media di cui disponiamo e che rendono difficile una comunicazione semplice, per cui quando vorrei dirti sto bene con te tu capisci qualcosa di orribile e malefico che ti allontana e non riesco più a capirti. E mi ripeti tu da uga uga scemo mamma deriendo piovo birico. E mi ripeti tu da uga uga scemo mamma deriendo piovo birico. Se tu fossi un'accetta ti potrei accettare. Vorrei essere viola per poterti violare. Diventare una festa per poterti infestare. Una spugna bagnata per poterti espugnare. Ma ci sono dei fattori esterni che potrebbero modificare lo stato di cose, come una tua eventuale partenza verso un continente lontano, la mia morte improvvisa per assenza d'aria, o una catastrofe che, costringendo il cosmo ad una contrazione improvvisa ed involontaria, segnerebbe anche l'irreparabile fine della nostra relazione umana e tu inizieresti a credere una vita oltre l'universo ed io non ti capirei più. E mi ripeti tu da uga uga scemo mamma deriendo piovo birico. E mi ripeti tu da uga uga scemo mamma deriendo piovo birico. Se tu fossi una corte ti potrei corteggiare. Se tu fossi severa potrei perseverare. Ma se fossi una vita ti dovrei abitare. Se tu fossi una porta mi potresti portare. Sono già stanco, ma tu mi vuoi spossare. Sono già stanco, ma tu mi vuoi spossare. Sono già stanco, ma tu mi vuoi spossare. Sono già stanco, ma tu mi vuoi. Intrecci amorosi parte 4, Tiziano. Tiziano da ragazzino stava dentro al passeggino perché aveva paura del mondo. Non più tanto ragazzino, conosciuto un po' di più il mondo, Tiziano ha cominciato ad avere paura inspiegabilmente del passeggino. Superata questa paura cretina del passeggino e conosciuto un po' di più il mondo, Tiziano ha cominciato ad avere paura di crescere, di addentrarsi nel tessuto sociale, di perdersi, di tradire se stesso, di innamorarsi, di soffrire, di essere tradito per aver tradito se stesso, o magari di innamorarsi della sofferenza di chi è stato tradito per aver tradito se stesso una volta che si è perso nel tessuto sociale. E va a trovare te stesso una volta che si è perso nel tessuto sociale, dopo che si è innamorato della sofferenza di chi è stato tradito per aver tradito se stesso. So scazzi, ci diventi scemo! Era meglio paura, invece la paura del passeggino a sto punto. Ma poi un giorno Tiziano, per caso, ha incontrato Ercatena. Ercatena gli ha presentato un po' di gente che frequenta e so finire i pimentali. Cerco l'inverno nel giardino, ma ho solo un cane che dice bau. Sento l'Atlante nelle ossa, ma lo stradario mi sposta assai. Ritmico a ferro una cambiale, scrivo la cifra con quattro zeri. Incaponisco nel non scordare che il mio amore lo paghi tu. Dammi un bacio blu, come gli occhi asciutti senza veleno, che ora io non vedo più. Dammi un bacio blu, come l'arco teso sulle parole, che non riesco a dirti più. Sento l'aguzzo maestrale che insegue il sogno d'un rigattiere. Vedo la suola delle scarpe che si consuma con il pensiero. Trovo 40 case sfitte per il mio gusto di dispersione. Festeggio in tutte le soffitte e mi ritengo soddisfatto. Dammi un bacio blu, come quel sorriso senza rovine che non vedo aprirsi più. Dammi un bacio blu, come le tue labbra morte e chiuse che ora non possiedo più. Soggiorni difficili, soggiornate difficili. Abbiamo da poco fatto il trasloco io e Piero. Siamo andati a vivere insieme io e Piero. Abbiamo preso tutto questo, quello là. Tu, ci manca solo Ostrofinaccio. Lavo tutto, i piatti, i pavimenti, i bicchieri, quello là. Tutto senza Ostrofinaccio. Non c'è proprio Ostrofinaccio. Dov'è? Non c'è! No! Piero è contro a filosofia d'Ostrofinaccio. È restio a figura d'Ostrofinaccio. Piero non fa niente dalla mattina alla sera, ma è contro a filosofia d'Ostrofinaccio. Niente fa Piero, niente, manco se lava. Che poi se ci avessi Ostrofinaccio, visto che Piero non si alza manco per lavasse, tra un mobile e l'altro, una botta di Ostrofinaccio gli darei pure a Piero. Tra un mobile e l'altro, una botta, ma giusto per togliere le incrostazioni, per evitare la proliferazione batterica. Sono contrariata. Sono contrariata per questo fatto d'Ostrofinaccio. Sono parecchio contrariata. Che uomo è uno che non fa niente dalla mattina alla sera e pontifica sulla questione d'Ostrofinaccio? Che uomo è uno che pur di non lavasse manco se fa passare Ostrofinaccio addosso? Sono contrariata, sono parecchio contrariata. Quando ho espresso in maniera animata a Piero il problema d'Ostrofinaccio, Piero finalmente si è alzato. E ma, gonfiata, de botte, sono contrariata. Sono contrariata per queste botte legate alla questione d'Ostrofinaccio. Sono contro. L'altro giorno però, mentre Piero se stava a riposare, ho preso il coltellaccio e ho fatto a pezzi Piero. L'ho ridotto una servietta, l'ho ridotto una pezzetta. Mo non so più contrariata, perché mo che ho ridotto Piero a una pezzetta, sì certo, non ci avrò più l'uomo, ma ho risolto il problema dello Ostrofinaccio. Ed io provavo per te un grande amore fortissimo, un grande amore che è tenero, amaro e bellissimo, mille parole d'amore, mille silenzi del cuore, ma non c'è amore che non sia triste a metà. Hai detto non è amore quello che c'è tra noi, ha proprio un altro nome, non è quello che vuoi, è un sentimento grigio e pesante come un tormento, un elefante. Ed io provavo per te un elefante fortissimo, un elefante che è tenero, amaro e bellissimo, mille parole d'elefante, tuo silenzio spezzante. Non c'è elefante che non sia triste a metà. Hai detto non è un elefante, quello che c'è tra noi è più insignificante, è quello che non puoi, è una stranezza molle e vischiosa stare vicini. È cosa rischiosa. Ed io provavo per te come un catarro fortissimo, come un catarro che è tenero, amaro e bellissimo. Mille parole di catarro, il tuo silenzio bizzarro. Non c'è catarro che non sia triste a metà. Hai detto non capisci e sei andata via. Quello che c'è tra noi è solo una bugia. Ed io provavo per te una bugia fortissima, una bugia che è tenera, amara e bellissima. Mille parole bugie, mille sottili agonie. Non c'è bugia che non sia triste a metà.